L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Il Sole 24 Ore ha recentemente pubblicato un rapporto dedicato all'energia con dati molto interessanti sulle rinnovabili, ma anche su quella da fonti fossili e sul risparmio energetico. Lo trovate ancora online sul sito del Sole 24 Ore. A questi temi fa molta attenzione uno dei settori portanti dell'industria italiana, ovvero la siderurgia. E allora oggi partiamo parlando di Federacciai, che riunisce 150 imprese del settore, vi fa capo il 95% della produzione nazionale e conta 65.000 addetti. L'Italia, come produzione di acciaio, è seconda in Europa dopo la Germania. Accantonato il nucleare, dice il presidente di Federacciai, Giuseppe Pasini, la questione energetica e in particolare quella del prezzo dell'energia è centrale per la vitalità del settore. La siderurgia, infatti, sottolinea sempre Pasini, è il più grande consumatore di energia del paese e le nostre bollette sono ancora le più care d'Europa. Ecco cosa ha spiegato Pasini nell'intervista di Sebastiano Barisoni. Noi abbiamo ancora una bolletta in questo momento ancora cara, anche se devo dire che questo governo, in modo particolare ringrazio l'onorevole Stefano Saglia, diciamo il gap è un po' diminuito rispetto alla media nazionale, media europea, pardon. Questo sicuramente vuol dire che il governo ha accettato anche, diciamo così, che i grandi consumatori in qualche maniera di aiutarli con ad esempio sull'interconnector piuttosto che su altre cose. Sono forme abbastanza tecniche per cui non voglio entrare nei particolari. Il problema dell'energia però è un problema che ha un risvolto anche sull'ambiente. Voglio solo ricordare che con il no al nucleare ormai l'Italia abbandona del tutto il nucleare, è pur vero che noi non ce l'avevamo, per cui tutto sommato facciamo energia da gas e da petrolio e da rinnovabili. La Germania sta prendendo la stessa direzione di abbandonare il nucleare, vuol dire che in termini generali in Europa ci deve essere una ridefinizione dei parametri di Kyoto. Per ridefinizione intendiamo dire non tanto l'obiettivo del 20%, che ormai è un obiettivo di per sé ormai ampiamente raggiunto, ma il fatto che alcuni paesi europei stanno tentando di andare sul meno 30 al meno 40%. Questa è una condizione essenziale anche a livello di Parlamento europeo, che invece si mantenga al 20%. Nel dire acciaio molti avranno pensato a strade e palazzi ed è giusto, ma l'acciaio, che è una lega composta principalmente da ferro e carbonio, è un po' dappertutto, dalle scatolette di tonno alle latte di vernice. In questo, come in tanti altri settori, quindi molto si può ottenere differenziando e riciclando, anche in termini di risparmio energetico. Non è la soluzione, ma di certo è un buon contributo. Giovanni Cappelli è consigliere del Consorzio Nazionale Acciaio e direttore di Anfima, che è l'associazione nazionale fra i fabbricanti di imballaggi metallici ed affini. C'è un materiale sicuramente che richiede un certo consumo di energia, per cui grazie al riciclo si risparmia il 70% dell'energia e per una tonnellata di riciclo si risparmia una tonnellata e mezzo di CO2. Sulle materie prime anche, no? Ci sarà un risparmio, immagino, nel momento in cui si utilizza materiale proveniente dalla raccolta differenziata. Ma c'è un risparmio sicuramente, poi c'è una sicurezza di approvvigionamenti, un po' perché l'Italia, sappiamo, è un paese, ai noi, povero di materie prime, per cui in questo senso il minerale di ferro che serve per produrre l'acciaio viene dal Far East o viene dal Sud America, quindi avere il rottame, poter produrre acciaio grazie al rottame ci permette sicurezza di approvvigionamento, ci permette dei risparmi e ci permette anche di avere appunto un materiale controllato e sicuro. L'acciaio, dicono i dati, è il materiale più riciclato in Europa, con il 72% del materiale immesso al consumo recuperato, una percentuale che è solo leggermente inferiore in Italia. E allora chiediamo a Cappelli, se facessimo ancora meglio nel recupero e nel riciclo, quello che otterremmo sarebbe sufficiente ad affrontare il nostro fabbisogno nazionale? Se parliamo dell'acciaio, gli imballaggi in acciaio prodotti in Italia sono tra le 500-600.000 tonnellate ogni anno, quindi tanto per tenere un dato di massima. Pensiamo, si riciclano ogni anno oltre 10 milioni di tonnellate di acciaio, quindi averne un 100.000 in più o in meno farebbe solo del bene, ci permetterebbe di evitare di importare del rottame di ferro da altre parti o addirittura di importare della materia prima. Noi comunque importiamo rottame, come ovviamente importiamo anche molto materia prima, diversi tipi di acciaio. Dall'acciaio all'alluminio, un metallo duttile, color argento, che si ricava dalla bauxite ed è usato per la fabbricazione di milioni di prodotti in diversissimi settori. Serve per realizzare dalle biciclette ai tetti, dalle pentole a vari tipi di imballaggi, lattine, bombolette, vaschette, rotoli di fogli d'alluminio, per esempio. Chi si occupa di recupero e riciclo degli imballaggi in alluminio in Italia è il CIAL, Consorzio Imballaggio Alluminio. Fa un buon lavoro, se si pensa che nel 2010 oltre il 72% degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato è stato riciclato e poi reso disponibile per un nuovo utilizzo. Eppure si può fare di più, come si diceva prima. Con l'alluminio le nostre industrie infatti sanno fare di tutto. Gino Schiona è il direttore generale del CIAL. L'Italia è nel campo dell'alluminio è terza al mondo, dopo Giappone e Stati Uniti in termini di capacità, quantità di alluminio riciclato. Noi importiamo ancora circa il 50% dei rottami dall'estero e quindi ad esempio l'attività che sviluppa CIA, che è quella di spingere la raccolta differenziata, sempre a obiettivi più ambiziosi, per recuperare più materiale. Recuperare più materiale vuol dire rendere disponibili alle fonderie più materiale e quindi dipendere meno dall'estero, e anche qui la bilancia economica evidentemente ne ha dei sollievi. Riciclare alluminio comporta evidenti vantaggi ambientali, non è necessario estrarre bauxite, ma ha anche altri vantaggi. Riciclare l'alluminio fa risparmiare il 95% dell'energia impiegata nella fase di produzione da minerale, che è credo il più elevato in assoluto tra i materiali di cui normalmente si parla in raccolta differenziata. E può essere riutilizzato per tutti gli scopi? Esatto, esatto. L'altro elemento è che non solo si risparmia il 95% di energia e quindi si risparmia anche i gas serra, la CO2. E poi andiamo dal punto di vista qualitativo. Molto spesso nel riciclo altri materiali hanno un decadimento della qualità, tale per cui io non posso rifare lo stesso materiale n volte. Ecco, nel caso dell'alluminio questo non è, e cioè l'alluminio può essere riciclato più volte e all'infinito, cioè lei da alluminio ricava alluminio e lo reimpiega come alluminio. Come ben si sa, gli italiani sono bravi a raccogliere almeno certi tipi di rifiuti, sono anche bravi a lavorarli, ma vivono ancora come all'età dei comuni. Ogni regione, città e comune ha un suo personale concetto di servizi pubblici e relativa gestione. Ha idee molto diverse su come e dove raccogliere i materiali differenziati. A volte le lattine vanno col vetro, altre volte no. E non si rassegnano nemmeno ad adottare un colore comune per le campane di raccolta della differenziata. Pensateci un po', forse che dappertutto il verde identifica il cassonetto del vetro? E così, sia il CIAL che Anfima, ma anche tanti altri consorzi di recupero, segnalano questi come i loro principali problemi. Insomma, siamo tanto bravi anche a metterci i bastoni fra le ruote da soli. E invece, da un corretto riciclo, avremo tutti da guadagnare, sottolinea ancora Schiona. Più il cittadino raccoglie in termini di qualità e rispetto dei criteri che dà il proprio comune, più questi materiali vanno a riciclo e si ha un lato, diciamo, di tipo economico. Il comune riceve, quindi la comunità riceve dei corrispettivi che ripagano il costo di raccolta differenziata e si risparmiano i costi di discarica. Quindi il primo lato economico-sociale. Il secondo sicuramente ambientale, risparmiando discarica si risparmia intanto spazio in discarica, percolato e quant'altro, si elimina un'estrazione di materie prime che dovrebbe produrre quel materiale, in questo caso l'alluminio. Abbiamo tempo per affrontare un ultimo e interessantissimo punto che lasciamo introdurre a Giovanni Cappelli, direttore di Anfima, che così ci parla di quello che definisce uno dei punti critici del sistema di recupero. Il problema forse è che non dà dei grandi meriti ai materiali che sono virtuosi, perché ci sono anche quei materiali penso magari ai poliaccoppiati, materiali flessibili che non vengono riciclati o che vengono riciclati in minima parte, non hanno una, in realtà non c'è una formula di premi e di incentivi o di penalizzazioni, per cui tutti i materiali, basta che in qualche caso non raggiungono neanche i limiti previsti dalla legge, ma tutto sommato sono ugualmente presenti sul mercato. Mancano incentivi ai materiali virtuosi, quindi manca l'attenzione a recuperare tutto il recuperabile da materiali o apparecchi complessi. Questo è uno degli obiettivi del consorzio Ecoped Ridomus, che si occupa di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Perché nei vecchi computer, nelle televisioni, nelle schede elettroniche sono nascosti metalli, vetri, plastiche molto preziosi che meritano di essere recuperati non solo per scopi economici ma anche etici. Giuliano Maddalena è il direttore del consorzio. Il rifiuto elettrico tipico che gestiamo noi è costituito da plastiche, è costituito da metalli ferrosi, da metalli non ferrosi, è costituito da schede elettroniche. L'attenzione che Ecoped Ridomus, attraverso il sistema di gestione EcoGuard, pone in maniera preponderante, la pone sulle schede elettroniche e sulle plastiche. Non perché i metalli non siano importanti, ma perché i metalli tendenzialmente hanno un rapporto costo-beneficio, cioè costo per riuscire ad ottenerli, estrarli dal rifiuto, beneficio molto elevato, quindi diciamo si riciclano da soli, si suol dire, mentre invece la scheda elettronica e le plastiche, che sono comunque delle parti importanti nel tema dei rifiuti elettrici, sono dei componenti che sono di difficile riciclabilità, ci vuole una tecnologia, ci vuole impegno, quindi costo, e pertanto se non ci si pone attenzione i fornitori tendono a non riciclarle. Ma cosa c'è di etico da garantire in questa filiera del rifiuto elettrico ed elettronico? Volendo molto. Quando noi facciamo il nostro dovere, consegnando un rifiuto alle piazzole ecologiche comunali o ai rivenditori perché compriamo un apparecchio nuovo, ecco, c'è un minimo di recupero che deve essere garantito da chi si occupa dello smaltimento, ma non c'è alcun obbligo di recuperare tutto fino all'ultimo briciolo di plastica. Tanto più che compiere processi tanto complicati può costringere a uscire dai confini nazionali, dice ancora Maddalena. Nei limiti del possibile cerchiamo di mantenere in Italia tutte le fasi, perché comunque è un consorzio italiano, ci piace lavorare in Italia. Devo dire però che in Italia oggi riusciamo a mantenere il controllo e riusciamo a qualificare fornitori fino al pretrattamento, cioè quella fase in cui il rifiuto elettrico diventa un insieme di frazioni separate, ma sono ancora delle frazioni che necessitano delle ulteriori lavorazioni. Queste ulteriori lavorazioni le abbiamo catalogate nella voce trattamento finale e oggi il consorzio Ecoped assicura che avvenga veramente il trattamento finale. Ad esempio delle schede abbiamo auditato, abbiamo verificato impianti in Belgio, impianti in Germania, impianti in Svezia. Per le plastiche abbiamo fatto lo stesso tipo di attività di verifica su impianti in Austria, su impianti in Inghilterra, quindi necessariamente il trattamento finale oggi, le dotazioni tecnologiche in Italia mancano, devono essere fatte fuori dall'Italia. Nonostante questo c'è comunque una convenienza a farlo? Ma ripeto, non c'è una convenienza di tipo prettamente economico, perché oggi la convenienza maggiore è nell'estrarre il ferro da qualsiasi tipologia di rifiuto, basta una calamita, quindi pochissimo costo di gestione e un buon rendimento. La convenienza è innanzitutto una convenienza ambientale, nelle schede elettroniche ci sono una serie di metalli rari, di metalli preziosi, che hanno in fase di estrazione impatti devastanti sulla terra, sulla terra, e oltre ad avere impatti devastanti sulla terra in fase di estrazione, sono anche elementi in via di esaurimento, quindi è stato calcolato che tra 20 anni alcuni degli elementi che oggi costituiscono l'elettronica di consumo, che ce la fanno costare poco, saranno assolutamente non presenti, e quindi con indubbi aspetti negativi dal punto di vista ambientale ma anche economico. L'altro pianeta. Eccoci qui dopo le informazioni sul traffico. L'altro pianeta prosegue adesso, come di consueto, con l'intervista di Cristina Carpinelli. Questa settimana un uomo dal multiforme ingegno, attore, autore teatrale, musicista, cantante, è Monio Vadia. Monio Vadia, nel suo quotidiano che cosa fa per l'ambiente? Ma guardi, intanto io ovviamente, siccome a Milano abbiamo la raccolta differenziata, facciamo la raccolta differenziata primo. Secondo, io sono vegetariano. Ci sono cifre che dicono che vengono macellati, sono quelle delle industrie, non perché Foer ha fatto fare ricerca da due ricercatori dicendogli datemi solo i dati ufficiali, non quelli degli animalisti o di Greenpeace. Ebbene, 34 miliardi di animali all'anno vengono macellati nei solo Stati Uniti. Questo sul piano dell'acqua, dell'inquinamento, del buco nell'ozono, è una follia totale e abbiamo veramente bisogno di mangiare tutto quello che mangiamo e soprattutto la carne che mangiamo. Consumo molto, abbastanza diffusamente, alimenti biologici. Non bevo acque minerali, ma bevo l'acqua del rubinetto, tra l'altro quella dell'acquedotto di Milano è eccellente. Ecco, tutto quello che posso fare, tutto quello che mi è consentito di fare nel piccolo lo provo a farlo. Senta, lei rappresenta un po' tutta quella fascia di intellettuali e di persone del mondo dello spettacolo che si sono spese molto anche per creare un humus o comunque un tessuto su cui lavorare insieme, no? Cioè lei partecipa molto anche alla società civile. Le voglio chiedere se questa coscienza che lei ha espresso appunto nelle sue scelte individuali, lei la sente anche crescere, insomma, tra la gente? Ma guardi, come sempre i fenomeni che attengono agli esseri umani sono contraddittori, non sono mai lineari. Io sento da un lato crescere una coscienza che si diffonde anche grazie alla rete, grazie alla società civile che, avendo provato una delusione abbastanza cocente dalla generalità dei partiti, si è rimessa in moto. Ci sono moltissimi spunti organizzativi che agiscono per costruire un pianeta diverso, una qualità della vita diversa, mi sembra di vedere crescere. Dall'altro, a volte la lotta sembra impari perché la potenza delle lobby, dei potentati economici che orientano le scelte dei governi è talmente soverchia perché non si è prevenuto l'aggregarsi di centri di potere, direi quasi aristocratico. Noi non abbiamo più il libero mercato come si intendeva in epoca classica, cioè nel senso che un'azienda produce dei beni, questi beni vengono consumati e sui guadagni si crea ricchezza economica. Oggi con la finanziarizzazione ci sono finanzieri che guadagnano sulle disgrazie, che guadagnano per esempio sulle crisi dei paesi, no? Ecco. Allora, manager che decidono autonomamente i propri stipendi, anche in barba agli azionisti e ai consumatori. Siamo, da un certo punto di vista, il crollo del cosiddetto comunismo ha liberato delle energie tossiche nell'altro sistema, terrificanti, per cui la distruzione del welfare state, anche sul piano delle operazioni che danneggiano la salute del pianeta, a volte sono esponenziali, la cementificazione sembra inarrestabile, però c'è anche una crescita di coscienza abbastanza diffusa, determinata anche da fenomeni tragici. Adesso sono sicuro che sul piano del pianeta questo ultimo tsunami con conseguente catastrofe nucleare produrrà un innalzamento diffuso del livello di coscienza, che bisogna rivolgersi ad altre fonti di energie, che bisogna pensare a un pianeta organizzato in modo diverso. Ma è molto, molto, molto, molto difficile far passare a livello diffuso, a livello di massa, un cambio di sguardo, proprio un cambiamento di sguardo, di concezione del mondo. Senta, se lei dovesse proprio in una battuta secca descrivere la Terra, che parole userebbe? Un groviera. tragico groviera. Questo pianeta è troppo piccolo per quello che gli stiamo facendo. Grazie Cristina Carpinelli per la sua intervista. Andiamo all'altra nostra rubrica. Articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana, che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Il microfono a Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati. Oggi abbiamo in collegamento con noi il professor Alberto Abruzzese, che è il preside della Facoltà di Turismo, Eventi e Territorio dell'Università IULM di Milano. Buongiorno professor Abruzzese. Buongiorno. Ecco, con lei commenteremo i risultati di una indagine che è stata fatta proprio dalla sua università insieme al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, dedicato a un tema che sta a cuore a molti italiani, cioè che cos'è la bellezza e che cos'è il paesaggio, in qualche modo nell'opinione pubblica, a partire dagli stessi studenti. Naturalmente questa è stata un'operazione, un lavoro a largo raggio, i risultati sono moltissimi. Io davanti a me ho tante cartelle nelle quali appunto potrei dare qualche dato. Mi colpisce moltissimo per esempio il fatto che il 21% degli interrogati non ha mai visitato un parco e non ha un parco vicino a casa sua. Il 21% di chi è stato interrogato non ha mai visitato un monumento storico e il 13%, pensate, non ha mai visitato un museo nella propria regione, quindi non si è mai occupato di vedere che cosa c'è intorno. Sono dati abbastanza sorprendenti naturalmente si inseriscono in un discorso più ampio per cercare di capire che cosa significa questa difficoltà di mettersi in relazione con ciò che ci sta intorno, con il paesaggio, con l'utilizzo anche del paesaggio. Quindi è molto importante, credo, sentire adesso un po' il parere di un esperto come il professor Abruzzese, che come preside della Facoltà di Turismo questi temi li tratta. Perché l'Italia e gli italiani hanno questo rapporto con la loro nazione che ci sorprende leggendo questi dati? Io credo che i motivi che rendono particolarmente drammatica o forse anche soltanto problematica, con possibili soluzioni, diciamo, la situazione italiana, siano legati alla storia delle istituzioni in Italia, alla difficoltà delle istituzioni che avrebbero dovuto incaricarsi di una socializzazione, diciamo, dei valori dell'ambiente, sono state scarse. Insomma, tanti fattori. Non credo che lo scarto e la situazione che si registra sui giovani in questo momento rispetto ai beni culturali e ambientali sia distantissima dalle situazioni di altri paesi. Credo che il problema semmai per noi è piuttosto per le vecchie generazioni, sono le vecchie generazioni, diciamo, sì, che hanno avuto un rapporto debole con l'ambiente, sì, e tra l'altro appunto una storia italiana che per una serie di fattori politico-amministrativi, culturali, ideologici, di interesse hanno dequalificato, diciamo, l'ambiente, lo hanno deteriorato. I risultati che ne emergono sono risultati che rivelano dei giovani che hanno un rapporto debole o assente con l'ambiente, con i valori dell'ambiente, per credo due fattori che si congiungono. Uno è quello di una cultura dei giovani che evidentemente è carente su contenuti che abbiano un carattere storico, diciamo. Sì. Ci vuole un po' di cultura, di storia, di senso della storia, di senso delle tradizioni, per nutrire un interesse per strutture come i musei o avere un gusto estetico. D'altra parte i giovani sono nati e vissuti dentro un ambiente televisivo e più in generale mediatico che spesso non favoriva, diciamo, una attenzione di questo tipo, anche se poi si può dire esattamente il contrario. Per fortuna, diciamo, una certa sensibilità al bello e al paesaggio e una certa rinascita, diciamo, di interessi per il territorio sono dovuti parimenti ad alcune ultime forme dell'informazione televisiva e dei consumi e soprattutto alla rete, che sicuramente è un, diciamo, massaggia, diciamo, la cultura, certo, dei giovani in rapporto con il turismo. Yulm è stata molto interessata a intraprendere questa ricerca esattamente per le seguenti ragioni, e cioè è un ateneo, la Yulm, che ha come contenuto prevalente delle sue discipline, dei suoi corsi di laurea, un interesse alla comunicazione, un interesse alla cultura, con discipline chiave come il marketing della cultura, come l'informazione, e quindi in effetti è l'istituzione che può farsi carico, diciamo, di questo doppio problema di una scarsa formazione dei giovani e contemporaneamente di una scarsa capacità dei beni artistici di fare comunicazione nel modo giusto. Bene, professore, io la ringrazio molto di questa sua testimonianza breve, ma che mette a fuoco bene quali sono le caratteristiche del problema. Da un lato c'è una certa indifferenza perché la cultura è poca intorno alla nostra grandissima tradizione, dall'altro però la possibilità, attraverso soprattutto le nuove forme di comunicazione, di indurre queste giovani menti, queste giovani intelligenze ad essere più sensibili a questo tema. Io la ringrazio molto per questa sua presenza. Grazie professore. Grazie a voi, grazie a voi. E saluto tutti gli ascoltatori. È tutto per questa puntata. Per scrivermi laura.bettini@radio24.it. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.